Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Friggere il pesce con lo zucchero è la cosa più strana di cui vi parleremo oggi. Benvenuti, benvenute a questa puntata di Medius e sentiamo i titoli. Un viaggio tra salute e ambiente in Italia. Lo hanno fatto due giornalisti scientifici raccontando 40 anni di successi e insuccessi ecologici. L'energia alternativa spiegata ai bambini. Presso il Museo dei Bambini Explora a Roma è allestita una mostra pensata per spiegare ai più piccoli cosa sono e come funzionano le energie rinnovabili. Friggere, ma senza odori né grassi. È possibile con il glucosio. Il rombo assoluto servito stasera dalla cucina scientifica di Mebius. La storia di Michael Faraday, che, nato poverissimo, scoprì il legame tra elettricità e magnetismo e che, quando finalmente ottenne il successo, non si montò la testa. Leo Gullotta ed Elio e le storie tese ci danno consigli pratici per evoluzionisti spaesati, un'insolita lezione sulla storia dell'evoluzione. Si chiamano Launeddas, sono antichi strumenti musicali sardi. Un gruppo di ricercatori ha messo a punto il primo software per l'analisi della loro musica. Voi dovete sapere, cari ascoltatori e cari ascoltatrici, che la mia collega Chiara Albicocco, che è qui di fianco a me... Ebbene sì, a volte ritornano. Dovrebbe avere, no, ce l'ha come background culturale, quello dell'etologia, quindi interessarsi di animali, però quando entra in studio e, come farà fra poco, si interessa insieme al nostro gastrofisico, sì. Buonasera Davide Cassi. Buonasera. Buonasera professore. Di cucina, sì, scientifica ha un'altra faccia di quando, sì, parla di animali. Sono un po' cocciuta, mi sono un po' attaccata alla materia. E questa sera la stranezza che ci arriva è glucosio, frittura di glucosio che però non è dolce. Sì, attenzione, una frittura senza odore, quindi non puzza e non ha grassi. Vero professore? Sì, soprattutto è una frittura senza una sola goccia di olio o di grasso, che è molto interessante per vari aspetti. Prima di tutto, come al solito, quello gastronomico, perché ha dei prodotti che sono molto interessanti e spesso migliori di quelli che si ottengono con una frittura normale. E poi non unge, quindi non ci appesantisce con i grassi, anche dal punto di vista dell'alimentazione può essere estremamente interessante. Ok, noi abbiamo detto glucosio, che è uno degli zuccheri in commercio. Perché utilizziamo il glucosio e non un altro? Allora, perché proprio il glucosio? Perché per friggere ci occorre un liquido che resta ad arrivare ad alte temperature. Con alte intendo temperature superiori ai 140 gradi, che sono quelle a cui scatta la famosa reazione di Maillard. Per intenderci, la reazione che ci dà il colore bruno, gli aromi di tostato, di arrosto, di cotto, sulla crosta delle patatine, la crosta del pane, sugli arrosti e su tante altre prelibatezze. Allora, qual è il problema? Che l'acqua non arriva a queste temperature. A 100 gradi l'acqua evapora e non possiamo farcene nulla per friggere. Per fare questo servono i grassi. I grassi però hanno anche qualche altra controindicazione, per esempio ungono, per esempio appesantiscono la nostra alimentazione. Sì. Ora, dove lo troviamo questo liquido? Non è un liquido facile da cercare, perché deve arrivare a 140 gradi e passa senza evaporare, deve arrivarci senza bruciare. E dulcis in fundo deve essere un liquido commestibile, perché altrimenti andremo ad inquinare il nostro prodotto. La ricerca non era facile, poi è stata risolta appunto escogitando una sostanza che a temperatura ambiente non è un liquido, ma lo diventa quando lo scaldiamo. Nel caso specifico è uno zucchero, poi mi chiederete perché proprio il glucosio? Ecco. Perché il glucosio ha delle proprietà perfette, perché fonde a circa 160 gradi e non brucia, caramellizza prima dei 190, quindi è un intervallo di temperature fantastico per friggere. Ecco, mi scusi professor Cassi, ma dovendo procurarsi questo glucosio, cosa faccio? Vado in un supermercato e chiedo, prendo dello zucchero, cioè cos'è che devo chiedere esattamente? Allora, il glucosio si chiama anche zucchero d'uva, perché è lo zucchero che si estrae normalmente dall'uva. In alcuni supermercati del nord Italia si trova normalmente in commercio, a volte sotto la voce destrosio, che è esattamente la stessa cosa. Nel dubbio andate dal farmacista, che è di solito il miglior fornitore di prodotti di questo genere, e gli ordinate qualche chilo di glucosio. Okay. Beh, ma qui cambia tutto questa cucina scientifica, andiamo dal farmacista a fare la spesa, va bene, va bene, va bene. Ma guardate che una volta il lievito si comprava dal farmacista. Ha ragione, ha ragione, è vero, è Doc, vero. Dovremmo tornare un po' indietro, anziché abituarsi a trovare tutto al supermercato. È vero, è vero. Ecco, senta, invece professore, dobbiamo specificare che pur trattandosi di una frittura nel glucosio, quindi in uno zucchero, il nostro prodotto poi non avrà un sapore dolce, nel senso che noi possiamo realizzare con questo tipo di cottura anche dei piatti salati, tant'è che noi col nostro chef di Alma, Luciano Tona, abbiamo preparato un rombo, un filetto di rombo assoluto, vero professore? Certo, perché una delle belle proprietà del glucosio rispetto a quella dell'olio sta nel fatto che non penetra all'interno dell'alimento, tutt'al più lascia una leggera crosticina sulla superficie che si può eliminare o conservare a seconda del piatto. Per esempio, se prepariamo le frittelle che vi mostriamo nel video, questa leggera superficie zuccherata e croccante può farci solo piacere. Se vogliamo friggere un pesce, possiamo agire in vari modi. Semplicemente lo friggiamo con la sua pelle e poi la eliminiamo una volta che si è coperta di zucchero, oppure lo ricopriamo con un cartoccio vegetale fatto di foglie di porro, friggiamo il tutto e a fine frittura eliminiamo questo cartoccio. Quindi esatto, le possibilità sono tante. In ogni caso, uno degli aspetti importanti sta anche nel fatto che questa frittura è molto più veloce rispetto a quella che si realizza con l'olio. E questo ci garantisce una maggiore conservazione di aromi e di sapori naturali. In più il glucosio è estremamente più viscoso rispetto all'olio e trattiene all'interno di ciò che stiamo friggendo tutta l'umidità e gli aromi che normalmente tenderebbero ad uscire. Quindi vi consiglio di provarlo perché il risultato è eccellente. E per chi non credesse a quanto abbiamo appena raccontato, lo può vedere. C'è lo può vedere sul nostro video, sulle nostre videoricette, nel blog che noi abbiamo sul nostro sito, blog.moebiusonline.eu, curato appunto dal professore. Noi, come al solito, abbiamo creato la nostra ricetta, le frittelle, una ricettina modesta, e invece il nostro magnifico cuoco, lo chef di Alma, Luciano Tona, appunto, il rombo assoluto. Grazie, professore. Noi abbiamo una sorpresa, sicuramente ci risentiremo proprio il 1° di gennaio alle ore 12, giorno per il quale stiamo preparando una puntata speciale, puntata. Esatto, proprio dedicata alla cucina scientifica. Grazie professore. Arrivederci. Arrivederci, grazie. Dunque io direi questo, tiriamoli su fin da piccoli insegnando loro tutti i modi migliori per produrre energia in modo sostenibile. Sto parlando dei nostri piccoli, c'è una mostra a Roma e ve la racconta Barbara Gallavotti. Nel cuore di Roma c'è un museo dedicato ai piccoli e ai piccolissimi, insomma un museo dei bambini. Si chiama Explora ed è un museo interattivo, cioè è composto da allestimenti che sono pensati per essere manipolati e quindi per stimolare la creatività dei giovanissimi visitatori. A Explora è in corso una mostra dal titolo Energy Island, alla scoperta delle energie rinnovabili. Scopo della mostra è spiegare ai più piccoli vantaggi e svantaggi delle energie rinnovabili, quindi come, quando e quanto possiamo sfruttarle. Si tratta di una mostra internazionale, nata dall'unione delle forze di diversi musei in Italia, Austria, Germania, Inghilterra ed Estonia. Abbiamo qui con noi la direttrice di Explora, Patrizia Tomasic. Buonasera. Salve. Ci racconta com'è organizzata questa mostra? Diciamo subito che non è grande, però è piuttosto densa. Sì, densa di contenuti e di cose innovative. È frutto di tanti paesi, un lavoro di un anno e mezzo, di tutti questi paesi insieme su un progetto di ricerca del 7° programma quadro della Commissione Europea. È un po' atipica come mostra, perché non è solamente per bambini, ma è anche per adulti, perché in effetti la prima tappa è Roma, poi dopo andrà al Palais de la Découverte in Francia, al Science Center di Brema, di in Austria, a Wels, quindi è fatta appunto per essere capita e giocata sia da bambini, ma anche poi da adulti. E quindi diciamo è una sorta di passaggio tra un software molto approfondito, i cui contenuti sono stati fatti dai francesi del Palais de la Découverte, su tecnologie future, pro e contro di ogni energia rinnovabile, e le energie rinnovabili scelte sono 5, appunto sono l'eolica, il solare, la biomassa, la geotermia e l'idrica. Ecco, ovviamente ciascun allestimento ha lo scopo di illustrare in modo molto semplice le caratteristiche di ciascuna rinnovabile, però tutto ruota intorno a questa Energy Island, l'isola dell'energia. Che cos'è? L'Islanda, diciamo, quando l'abbiamo pensata, appunto, era un po' una sfida. Come facciamo, oltre a far capire cosa sono le rinnovabili, quindi a spiegarle, poi dopo come facciamo a mettere insieme bambini o adulti insieme che giochino a usare, a capire in effetti, perché in effetti il capire è poi dopo è il fare, soprattutto da noi. E quindi ci è venuto in mente un po' un gioco, vi ricordate SimCity, ecco, uno costruisce qualcosa e quindi è venuta fuori quest'isola. L'isola è per antonomasia proprio un pezzo di terra in mezzo al mare, quindi dovendo essere assolutamente indipendente deve avere accesso a delle energie che sono sull'isola. Sull'isola possono esserci benissimo tutte, dalla idrica, perché appunto è al mare, alla geotermica, alla solare, alla biomassa, eccetera, eccetera. Quindi lo scopo è trovare il giusto equilibrio fra le varie tipi di energia in modo da rendere autonoma l'isola, però certo. Ci sono dei trucchi, per esempio il solare non può essere messo nel luogo più ombreggiato dell'isola e così esatto. Via. Certo, non può essere messo a nord, ma deve essere messo solo a sud, altrimenti è uno spreco. L'idrica ovviamente deve essere vicino e deve sfruttare il moto ondoso, comunque l'acqua, il movimento dell'acqua. La biomassa, ci deve essere dell'erba, ci deve essere delle stalle. I bambini in quest'isola devono poter appiazzare tutte queste singole energie, ad esempio la geotermica magari non si andrà a mettere in cima a una montagna e come appunto come il solare non si andrà a mettere completamente a nord. Una cosa che colpisce visitando la mostra è che è in più lingue, proprio perché nasce da una collaborazione fra musei di diversi paesi. Sono diventate comuni queste collaborazioni fra musei europei? Sì, devo dire grazie a due associazioni. Una, vabbè, la più grande è Excite, diciamo, l'associazione che raggruppa tutti quanti i science center, diciamo, del mondo, e poi c'è Hands on Europe, che è piccola ma comunque molto sta crescendo man mano e associa, diciamo, i Children's Museum, i musei dei bambini. E poi insomma alla fine aiutandosi si capisce più o meno che poi dopo alla fine i problemi sono sempre gli stessi e magari si riesce anche a collaborando insieme a creare qualcosa di nuovo. Si capisce che i problemi sono sempre gli stessi, vuol dire che sono più le cose che uniscono i musei di culture diverse che quelli che li dividono. Avete dei problemi a trovare dei linguaggi comuni che vadano bene dall'estremo nord dell'Europa all'estremo sud, est, ovest? Dunque è buffo perché poi alla fine, ecco, per quanto riguarda il linguaggio ai bambini è molto semplice, i bambini spesso, diciamo, hanno meno bisogno di leggere, cosa che invece abbiamo bisogno noi grandi quando accompagniamo i bambini in visita, mentre appunto i bambini sono immediati, capiscono subito se un gioco li attrae e quindi non so, per esempio un problema comune è come attrarre appunto un bambino, perché solitamente ad esempio se un gioco con un software rischia di essere schiacciato quel pulsante e il bambino prende e se ne va perché magari il computer è più lento, diciamo, della sua pazienza, no, della sua pazienza o reazione. Grazie Patrizia Tomasi, buonasera. Grazie e buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Oggi col nostro gioco andiamo per mare, un po' sopra il mare per essere precisi. Siete pronti? Siamo al quiz. Avete presente i pesci volanti? Nei documentari li abbiamo visti più volte, credo, tutti escono dall'acqua, riescono a percorrere distanze anche di 100 metri. Ma perché questo strano pesce si mette a volare? Prima possibilità, prima risposta. Vola per sfuggire a predatori e pericoli in genere, ci scriverete pericolo. Seconda possibilità. In aria e vicino alla superficie del mare ci sono molti insetti. Questi pesci hanno imparato a cibarsene e per farlo, ovviamente, devono uscire dall'acqua. Ci scriverete insetti. Terza e ultima possibilità. Perché le orche e altre cetacei escono dall'acqua e fanno anche dei gesti ginnici spettacolari? Beh, per loro divertimento. E questa è una buona motivazione. Ci scriverete divertimento. Come sempre, con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Pianeti tra le note, appunti di un astronomo divulgatore, di Angelo Adamo, edito da Springer. In collaborazione con IBS.it. C'è un signore in copertina del libro di cui vi parlerò adesso, ha una maschera antigas, però ha anche un gessato molto elegante, forse per vedere come le due cose vanno insieme, una vita normale e una vita con dei problemi. Il libro è Polveri e veleni, è stato scritto da Luca Carra e Margherita Fronte, che sono nostri ospiti questa sera. Luca, buonasera. Buonasera. Margherita, ciao. Ciao. sono due giornalisti scientifici sul campo da diversi anni e specializzati proprio nelle questioni di tipo biomedico. Allora, Polvere e Veleni, edito da Edizioni Ambiente, viaggio tra salute e ambiente in Italia. Questo viaggio, Luca, inizia da Seveso. Si dice di questi tempi che anche questo problema, questo timore dell'uso dei vaccini sia dipendente dal fatto che in fondo queste cose che ci fanno male, come i virus, non le vediamo e quindi c'è una certa così diffidenza che possa far male qualcosa che non vediamo. A Seveso questo era proprio il tema centrale, no? Lo stato d'animo centrale. A Seveso, dove voi dite che è nato praticamente l'ambientalismo italiano. Sì, il 10 luglio 1976, questo incidente in cui per la prima volta in Italia si sprigionò una nuvola giallastra di diossina che poi si posò sul terreno, certo, di Seveso e di Meda. Qui nasce l'ambientalismo italiano, effettivamente. Se in America nasce un po' prima, nel 62, con questo bel libro di Rachel Carson, Primavera silenziosa sul DDT e sui pesticidi, l'ambientalismo scientifico in Italia nasce proprio nel 76 con questo disastro. Dunque nasce con un disastro che ovviamente preoccupa molto le persone, di cui adesso si è riusciti a tirare un bilancio sanitario abbastanza chiaro e di cui noi riferiamo nei primi capitoli del libro. A proposito appunto di bilanci, una caratteristica di questo libro, lo voglio dire a chi ci ascolta, è che voi siete molto attenti a quelli che sono i dati recuperati sui più diversi problemi ambientali, le ricerche fatte, e quindi in alcuni casi avete elementi per dire che le cose stanno effettivamente in un certo modo, negli altri il libro è molto scrupoloso nel riportare tutte le tesi più aperte, in particolare per esempio perché il libro non è solo sull'Italia, voi fate anche un excursus sull'incidente di Chernobyl e lì appunto noi abbiamo ancora dati contrastanti, certamente non è stato una cosa salutare, però insomma questa impostazione, Margherita, è tipica del libro, caratteristica del libro. Sì, sì, in effetti è proprio così, perché ci sono chiaramente alcuni argomenti che sono ormai abbastanza chiusi, altri che sono invece decisamente aperti. Fra quelli aperti possiamo sicuramente citare la questione degli effetti sulla salute delle nanotecnologie. Questo è un tema estremamente delicato, perché il settore delle nanotecnologie è in fortissima espansione e sarebbe forse un po' miope sicuramente fermare tutto e non sfruttare i possibili benefici che queste nanotecnologie possono dare anche nel settore sanitario e anche per esempio nel settore energetico per i pannelli solari e così via. Tuttavia c'è un numero sempre maggiore di studi che indica che la manipolazione di nanoparticelle e anche il venire in contatto con queste nanoparticelle può effettivamente provocare dei danni alla salute. In particolare la malattia che maggiormente si sospetta è un tumore del tutto simile a quello che provoca l'amianto, questo perché si è visto che le nanoparticelle effettivamente possono penetrare nei tessuti e ultimamente uno studio molto recente ha visto che si possono anche fermare proprio a livello dei polmoni, nelle pleure, quindi effettivamente questo sospetto molto forte, cioè questi studi sono fatti su animali. D'altro canto le ricerche sono ancora molto molto all'inizio, peraltro in questo caso, a differenza di quanto è stato fatto in passato, ci sono dei programmi di ricerca molto molto avanzati e che hanno anche ricevuto molti finanziamenti, in particolare dall'Unione Europea e dagli Stati Uniti, proprio per valutare i rischi delle nanotecnologie. Ora, la speranza è che la valutazione dei rischi proceda di pari passo con l'immissione di queste tecnologie nell'ambiente e nella nostra vita quotidiana. Insomma, bisognerebbe fare attenzione a non correre troppo, per un certo verso, nello sviluppo tecnologico e allo stesso tempo ad avere molta molta attenzione appunto per i possibili effetti e le misure di precauzione che vanno presi per gestire al meglio queste tecnologie. Sì, attività preventiva che effettivamente non fa molto parte dello sviluppo tecnologico degli ultimi decenni, dell'ultimo secolo, insomma siamo sempre arrivati tendenzialmente dopo. Ritorniamo a un tema di visibilità e invisibilità con Luca, sull'inquinamento dell'aria, che è diventato un tema di estremissima attualità in questi ultimi giorni, perché il governatore della Lombardia, il sindaco di Milano, hanno ricevuto un avviso di garanzia per mancato intervento nella situazione dell'inquinamento metropolitano che è andato tantissime volte oltre la soglia, no? Sì, ogni anno va sopra i limiti più di 100 giorni, 150 giorni circa. Quasi mezzo anno. Sì, ma è molto giusto dire che è una questione di grande visibilità ma anche di grande invisibilità, perché effettivamente il inquinamento dell'aria non si vede, quindi non si ha l'impressione forse fino in fondo che possa fare male, anche se in questi ultimi tempi è molto aumentata. Ci sono i genitori antismog, le associazioni ambientaliste, ma anche la cittadinanza, insomma, ne ha preso consapevolezza. Però resta una cosa molto, come dire, controversa, non tanto sul fatto che lo smog faccia male alla salute, quanto sull'entità di questo danno. Anche dati recentissimi di uno studio epidemiologico reso noto addirittura qualche giorno fa, per cui non citato nel libro, che è EPIR, fatto su una decina di città italiane, ci mostra che solo gli effetti a breve termine, per cui escludiamo le malattie croniche, anche i tumori, ma gli infarti, gli ictus, i problemi respiratori, generano in una città come Milano un 150 morti in più all'anno, che non è proprio nulla, perché sono morti questi, sono decessi. Se invece parliamo di ospedalizzazioni per insufficienze respiratorie, per crisi di asma e per altri fatti, andiamo non in ordine alti. Dei centinaia ma delle migliaia, per cui l'impatto c'è, ormai ce n'è consapevolezza un po' in tutto il mondo, in Europa, ci sono delle direttive europee sempre più stringenti, ma tutta la situazione della pianura padana e in Milano in particolare è fuori controllo sia perché ci sono delle condizioni meteorologiche sicuramente che non aiutano, perché l'aria ristagna in questo catino che è la pianura padana. Però mi sento di poter dire, l'abbiamo scritto anche nel libro, che questo non deve essere un attenuante, ma semmai uno stimolo a prendere veramente in considerazione misure molto molto stringenti. Altrimenti finiamo come questo signore che sembra stia andando in borsa con il suo gessato, ma ha una maschera a gas, e questo signore è appunto sulla copertina di Polveri e Veleni, Edizioni Ambiente. Luca Cara e Margherita Fronte ne sono l'autore e l'autrice. Grazie Luca, grazie Margherita. Grazie a voi. Nato molto povero e vissuto per lungo tempo come stagista, diremmo oggi, presso grandi scienziati della sua epoca. Poi ad un certo momento con i suoi studi ha cambiato un pezzo fondamentale della scienza, ma anche della nostra vita, direi. Maurizio Melis sta per parlarvi di Michael Faraday. La vita di Michael Faraday cambiò il giorno che Dance Junior entrò nella libreria in cui Faraday lavorava da apprendista legatore. Era il 1812 e Faraday aveva 20 anni. Nato in una famiglia poverissima che per anni era vissuta delle pagnotte elargite dal governo inglese, Faraday aveva imparato a leggere da solo all'età di 13 anni, quando aveva iniziato a frequentare la bottega di Ribot, il libraio, ed era stato folgorato dalla filosofia naturale che aveva studiato da autodidatta, apprendendo sui libri che gli capitavano sotto mano. Il suo maestro, datore di lavoro, un uomo buono, aveva consentito affinché Faraday potesse trasformare un angolo della bottega in un piccolo laboratorio dove il giovane aspirante filosofo naturale poteva fare i suoi esperimenti, i cui risultati annotava scrupolosamente su un libro. Fu questo libro che Dance Junior, l'uomo del destino, notò entrando nella bottega di Ribot. Incuriosito lo prese in prestito e pochi giorni dopo lo restituì con all'interno 4 biglietti per assistere alle lezioni di Humphry Davy, vero idolo delle folle che stupiva il pubblico con conferenze durante le quali metteva in scena esperimenti mirabolanti. Davy era il più illustre chimico d'Inghilterra e aveva costituito la più grande pila di volta del mondo. Ed era proprio l'elettricità che più di tutto aveva attratto l'interesse di Faraday. Le 4 lezioni a cui assistette infiammarono l'immaginazione di Faraday, che più di tutto voleva fare il filosofo naturale. A quel tempo però la scienza non era un'attività remunerativa. Beh, in Italia neanche oggi, ma questo è un altro discorso. Sta di fatto che era praticata solo dai più benestanti. Inoltre il tempo di Faraday stava per scadere, il momento in cui sarebbe divenuto definitivamente un legatore era vicino e il giovane iniziava a disperare. Fu così che si risolse a scrivere a Davy una lettera nella quale gli confessava le proprie aspirazioni. Vi accluse anche gli appunti presi durante le lezioni dello stesso Davy. passarono i mesi e Faraday era ormai rassegnato quando giunse una lettera nella quale Davy, che aveva litigato con il suo assistente, gli proponeva di sostituirlo. Pochi minuti dopo Faraday si trovava a bussare alla porta di Davy. Iniziava così la sua carriera scientifica. Non fu facile, Faraday dovette lottare contro i pregiudizi a causa della sua origine assai umile, ma passo dopo passo e nonostante a un certo punto i rapporti col suo maestro Davy si guastarono a causa della gelosia di quest'ultimo, il suo genio fu alla lunga riconosciuto. Faraday inventò il motore elettrico, scoprì il diamagnetismo e l'effetto che porta il suo nome, ma soprattutto comprese che l'elettricità e il magnetismo erano manifestazioni di uno stesso fenomeno e comprese che legame c'era fra queste due forze, ponendo le basi per la teoria elettromagnetica di Maxwell. Vide il mondo cambiare intorno a lui grazie alle ricadute delle sue stesse scoperte, ma rimase per tutta la vita un uomo buono, gentile e umile. La formazione religiosa sandemanista che aveva ricevuto da piccolo e il suo carattere timido lo portarono, pensate, a rifiutare per due volte la presidenza della Royal Academy, la più prestigiosa istituzione scientifica inglese, e persino l'onore supremo della sepoltura a Westminster. Ad essa preferì una semplice lapide in un semplice cimitero. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sta terminando l'anno dedicato a Darwin e noi lo concluderemo con due modalità un po' insolite. Nella prossima puntata parleremo della moglie di Darwin, Emma Darwin, e in questa invece ci aspettano Elio e le storie tese e Leo Gullotta. Chiara Albicocco vi racconterà di che si tratta. Io aggiungo soltanto che c'è dentro in questo servizio anche un'idea per un piccolo regalo natalizio, però molto simpatico. Rinchiuso nel suo stipato spazio cittadino, preoccupato per i debiti e per le scadenze, deluso dagli amori perduti e rappreso dentro il sudore dei giorni che ingrati si sfiorano come gratta e vinci, senza fortuna, l'uomo contemporaneo avverte un certo senso di inadeguatezza. Perché, se davvero siamo esseri evoluti, il mondo continua ad essere pieno di ingiustizie, amori infranti e weekend di pioggia? Probabilmente la voce l'avrete riconosciuta perché è quella di un notissimo attore italiano. Ecco, che è stato coinvolto in una bella iniziativa di cui vogliamo raccontarvi stasera. Il titolo è Consigli pratici per evoluzionisti spaesati. Ne abbiamo già parlato quest'estate perché è stata una conferenza spettacolo che ha girato l'Italia e ora è diventata un doppio CD. Vogliamo dire che è un originale regalo di Natale. Chi volesse trovarlo, poi vi raccontiamo dove può recuperarlo. Ecco, dicevo che si tratta di un'insolita storia sull'evoluzione, sulla storia dell'evoluzionismo, scritta da Emanuele Coco, storico della scienza, e gli interpreti sono Elio e le storie tese e, con la partecipazione straordinaria di, appunto, Leo Gullotta, che è la voce che abbiamo appena sentito, e questa sera Leo Gullotta è qui con noi, non ha bisogno di presentazioni perché la sua bravura ormai è notissima. Buonasera Leo. Grazie, molto gentili, bentrovati, buona serata a tutti. Ecco Leo, tu sei la guida, il Virgilio che conduce lo spettatore in questo spettacolo, conferenza, in questo viaggio attraverso le teorie evoluzionistiche. Partiamo dal fissismo, quando si pensava che tutto fosse statico e immutabile, fino a Darwin, in quel vecchietto che quest'anno compie 200 anni. Com'è andata? Ma innanzitutto, lo dice il titolo stesso, per evoluzionisti spaesati. Essendo io uno di quelli, un cittadino come voi che state in questo momento in ascolto, non studiosi, non storici come Emanuele Coco, quando mi ha parlato di questo suo progetto, ho aderito immediatamente, primo per amicizia, per stima di studio della persona, in questo caso appunto Emanuele Coco, ma il divertimento era proprio in questa chiave. E se il tema è l'evoluzionismo spiegato, come posso dire, in maniera leggera ma assolutamente profonda, è un modo per capire meglio quest'uomo, quest'individuo, questa società, io cittadino, che puntualmente allontaniamo possibili informazioni per capire chi siamo, come viviamo, e se questo è fatto con leggerezza, con simpatia, l'evoluzionismo è stato per me, in questo caso, un divertimento nello studio di Emanuele Coco. Mi sono divertito un mondo con le sue leggere ironie, con le sue leggerezze. Guarda, faccio un paragone in maniera molto leggera, che se fosse, che ti posso dire, in America, potremmo definirlo un percorso come potrebbe fare Woody Allen. E quindi la leggerezza nella sua verità è assolutamente straordinaria. Ma magari le cose fossero spiegate così a tutti, vivremmo meglio, anche per capire, ahimè, questi tempi. Ecco, Leo, tu gli hai fatto un gran complimento, e allora a questo punto dobbiamo tirarlo in causa. C'è qui con noi anche l'autore e regista Emanuele Coco. Buonasera, Emanuele. Buonasera a tutti e buonasera a Leo Gullotta, che come sempre si dimostra davvero non solo un grande artista, ma anche una grande persona dalla generosità incredibile. Le sue sono parole fin troppo generose nei miei confronti, io gli sono davvero tanto grato. Emanuele, ma come ti è venuto in mente di mettere insieme questi grandi musicisti come gli Elio Staretese, il grandissimo attore Leo Gullotta e un vecchietto che compie 200 anni come Charles Darwin? Ma guarda, in realtà ne ho messi insieme anche di più, perché poi c'è una che parte dal 1600 e arriva anche al dopo Darwin. L'idea per l'appunto era quella di prendere i momenti più, se vuoi, poetici, a volte drammatici, in tanti casi ironici, che si trovano nelle opere di questi autori, di questi naturalisti, pionieri dell'evoluzionismo, che alla fine erano semplicemente delle persone che guardavano il mondo con occhi meravigliati e sinceri, cercando di costruire anche loro delle storie per mettere insieme questi elementi che vedevano attorno e cercare una possibile logica, quindi un racconto di questo mondo. Le persone che sono coinvolte mi sono sembrate veramente le migliori, quelle che, con cui avrei potuto anche lavorare meglio, che è una cosa importante. Ecco Leo, questo progetto di Emanuele, che magari poteva sembrare ardito, in realtà è stato riuscitissimo e il CD ne è un bel esempio. Quindi forse è possibile trattare anche dei testi, dei temi scientifici che forse possono sembrare ostici, strizzando anche l'occhio al teatro, alla letteratura, alla poesia. Ma certamente, ma ci mancherebbe altro, anzi è già in corso questo da qualche anno nei teatri italiani. Voglio dire, non so, Margherita Hack cerca di fare uno spettacolo, quindi cerca di spiegare alla platea, a una platea diciamo di esperti, ma cerca di far capire ad esempio che cos'è l'astronomia, cerca di far capire, oppure non so, Dulbecco che si incontra facendo capire la sua materia, ma il tutto teatralmente, cioè cercando di arrivarci con un linguaggio semplice, ma per la conoscenza. E i teatri, visto che è sempre gratis, non si paga, non si è mai pagato, sia a Roma, sia a Milano, sia in altre città, sì, i teatri con queste lezioni, diciamo, di storia, di scienza, di fisica, sono strapieni, quindi non è vero che le persone non sono interessate, anche perché è un grande stimolo da questo punto di vista. È forse il modo più importante, è vero. E a questo proposito io farei sentire anche la voce degli Elio Staretese, che ho raccolto proprio quando sono andata a Milano a vedere lo spettacolo, dove ci spiegano Elio e Rocco Tanica quali sono alla fine questi consigli per evoluzionisti spaesati e che cosa ci fanno in questo cast scientifico. Mi sembra un bellissimo modo, diciamo, per imparare delle cose anche per noi stessi, insomma. Sì, per essere precisissimi non abbiamo parlato dell'evoluzionismo, ma della storia dell'evoluzionismo, cioè come gli scienziati siano arrivati, insomma, a teorizzare quello che poi sembrerebbe essere vero, anche se, come ha giustamente sottolineato Rocco Tanica, noi siamo comunque creazionisti. Ecco, infatti voi avete concluso dicendo voi siete creazionisti, allora non avete capito niente della lezione. Non abbiamo capito, noi possiamo non essere d'accordo, anche se il testo di cui ci facciamo portatori è un testo di tutto rispetto. Noi, come giustamente sottolinea Elio, possiamo non essere d'accordo con Darwin, ma daremmo la vita per permettergli di esprimere le sue opinioni. Però diciamo che da due vecchi creazionisti monarchici come noi è da apprezzare lo sforzo in un'Italia repubblicana di parlare di evoluzionismo. Siete stati convincenti, in effetti. Dunque, quali sono questi consigli per gli evoluzionisti spaesati? Il consiglio va anche ai nostri conterranei, gli italiani, l'Italia terra di montagne, di pianure e di mare. Il consiglio è agli amici italiani che vivono in prossimità del mare di prendere spunto e cominciare a sviluppare branchie. e invece per quelli che vivono magari nelle zone di altura e di montagna, di cominciare a sviluppare artigli o, altra, o altro genere di utensili. Cioè, sviluppate qualcosa, evolvetevi, cosa state lì sempre col solito corpo? Prendete spunto da quello che ha detto Darwin e evolvetevi. La scienza è sempre stato un nostro pallino, quindi noi oggi non siamo certo qui a caso, non ci ha certo scelti a caso. Le Coco non è che poteva andare a prendere tipo i Subsonica, per dire, o i La Cruz. Cioè siamo i musicisti giusti al posto giusto. Rocco, vuoi dire l'ultima cosa? Semplicemente questo, quando fate evoluzioni non limitatevi all'attività circense, cioè tipo capriole, pirulette o cose del genere, ma prendete esempio dai grandi che l'hanno spiegata diffusa ben prima di noi. Mi sembra che appunto la scienza veramente possa essere raccontata anche con ironia e con poeticità, come abbiamo appena sentito. Nel CD vengono prese in considerazione praticamente in questa lezione veramente insolita tutte le teorie, dal fisismo, come abbiamo detto prima, le primissime teorie in cui si credeva proprio che le specie viventi fossero così, tali e quali fin dall'alba dei tempi, cioè tutto fosse immobile e mutato. Poi si passa ai primi evoluzionisti come Benoît de Maillet, che riteneva che la vita appunto si sarebbe originata dall'acqua, dal brodo primordiale. Le prime forme di vita perse nella storia naturale tentano di emanciparsi dalla condizione di immutabilità. L'interrogativo aleggia: le specie si evolvono o sono fisse, immutabili, destinate a rimanere le medesime per sempre? Sul sipario dell'evoluzione si accendono le luci. Lì il letterato francese Benoît de Maillet, vissuto tra 600 e 700, scrive audacemente sotto falso nome ciò che pochi fino allora avevano osato pensare. Le specie possono trasformarsi e infatti tutti gli organismi che popolano la Terra sono derivati dalle acque. Leo, che meraviglia, veramente la scienza sembra proprio la tua materia, eh? Sei riuscito a dare questo elemento di poesia, veramente meraviglioso, i testi sono stupendi, ma devo dire che la tua interpretazione è fantastica. Ti era già capitato di cimentarti in temi legati alla scienza? Sì, con qualche altra formula, però questa è stata più giocosa, più divertente, fatto assieme a Emanuele Coco in studio, leggendo, divertendoci, stuzzicandoci, portando parole dette in un determinato modo, tra il gioco ovviamente e la verità. Questo cosa dimostra? Amici in ascolto, bisogna essere curiosi nella vita, non per forza studiosi, però se si è curiosi si cammina con un bagaglio sempre più grande, più importante, e sicuramente la vita e ciò che ci sta attorno si guarda con più attenzione, ma siate curiosi. E se qualcuno si fosse incuriosito appunto negli audio che avete sentito e vuole reperire insomma questo CD, Emanuele, dove lo può trovare? Ma dunque, il CD si trova principalmente nei bookshop dei musei, non solo i musei di storia naturale, si trova anche a Palazzo delle Esposizioni a Roma, che è un museo d'arte, e dunque i musei in generale in Italia, perché vuole anche essere un modo per invitare a fare una passeggiata ai musei. C'è un sito internet di cui suggerisco subito l'indirizzo: www.spaesati.net, come gli spaesati, gli evoluzionisti spaesati. Facilissimo. Dove si possono trovare informazioni su tutti gli artisti che hanno partecipato, anche i musicisti, e appunto gli indirizzi ai quali è possibile trovare, nei quali è possibile trovare il CD. Ok, sul nostro sito www.moebiusonline.eu metteremo tutti i riferimenti. Grazie mille Leo e ancora complimenti. Grazie. Grazie Emanuele, e noi vi salutiamo così. Oh. Ehi tu! Sì. Oh, che c'è? Oh. Dai! Che fai tutto sconsolato? L'evoluzione ti butta giù. La selezione ti deprime? Senti un trambusto di geni? Ma no, è che... Devi ridimensionare la cosa. Sì, ridimensionare la cosa. La specie umana rappresenta un successo straordinario perché la sua cultura è capace di cambiare molto più in fretta del suo patrimonio genetico. Questa è la ragione per cui l'evoluzione culturale è diventata, dal punto di vista adattativo, la più potente derivazione dell'evoluzione biologica. Ma sì, e poi i geni non sono tutto nella vita, anzi... anche questo capitolo della storia dell'evoluzione volge al termine. Il futuro, come sempre, ci riserva novità. E tutto potrebbe andare per il meglio se la sorte, che governa le nostre ruote, vorrà assisterci anche questa volta. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Allora, perché questi benedetti pesci volanti volano? Questa era la domanda del nostro quiz. Perché volano fuori dall'acqua? Niente caccia agli insetti, né voli per divertimento. I pesci volanti, dotati di pinne frontali particolarmente più sviluppate di quelle degli altri pesci colleghi marini, hanno capito che la possibilità di uscire dall'acqua per un certo tratto, o per esempio un centinaio di metri, disorienta fortemente i predatori, che sono i delfini, per esempio, oppure i tonni. Volando, insomma, scompaiono alla vista di chi vuole mangiarseli. Il fatto è che a volte il volo finisce male, soprattutto quando c'è poca luce o per niente, per esempio di notte. Non è infrequente con le barche a vela o yacht che un pesce volante finisca sul ponte o addirittura che si infili in una cabina passando per gli oblò. Adesso vi faccio ascoltare il suono di uno strumento che probabilmente molti di voi riconoscono, ma guardate che dietro questo suono e questo strumento c'è un mistero assolutamente affascinante. È mio ospite per sentire insieme a me, per parlarne di questo strumento. Diciamo subito che si tratta delle launeddas, strumento sardo. E ho mio ospite Andrea Corona. Buonasera Corona. Buonasera. Musicologo, collaboratore di Sardegna Ricerche, che è un parco tecnologico che abbiamo in Sardegna, dove lei coordina un gruppo di informatici e di elettronici. Sì, esattamente, con un piccolo gruppo di elettronici e informatici con i quali abbiamo realizzato e brevettato un hardware, un software che ci permettano appunto di scandagliare questa musica. Qui già dobbiamo capire perché per le launeddas ci vogliono musicologi. Questo può essere comprensibile, ma informatici e progettatori di hardware. Incominciamo a sentire subito una prima esecuzione di launeddas. Qui la prima impressione, Corona, è che stiano suonando in 20, invece... Invece è solo uno. Poi sul nostro sito potrete andare a vedere un sacco di immagini e anche di suoni, ma come sono fatte le launeddas? Le launeddas sono uno strumento arcaico, molto semplice, in canna palustre, sono tre canne. Tre canne? Tre canne, sì, di diversa lunghezza, con diverse combinazioni tra loro, ma estremamente semplici, canne forate in sostanza. Il tipo di emissione è come nel sassofono, un'ancia semplice. Sì. Le ance vengono praticamente imboccate, se possiamo usare questo termine, dal suonatore, quindi le guance fungono un po' da otre. Loro praticano tra l'altro una respirazione circolare, come nel didgeridoo australiano. Cioè, inspira, suonano sia espirando che inspirando? No, espirano e contemporaneamente inspirano. Ah, quindi siamo già sul complesso come cosa. Come il pianista suona con la mano destra una cosa diversa con la sinistra, loro riescono a suonare con una triplice differenziazione. Sì, in realtà è una duplice, perché sono due le canne destinate alle mani. Sì, e l'altra è più sul mantice. Sì, l'altra fa un suono fisso, tipo bordone. Fortale. Però sì, c'è un'armonia... una melodia indipendente per ogni mano. Allora, la cosa singolare che non si percepisce, sentendo questi suoni, è che è uno solo che fa questa cosa che sembra un'orchestra, ma soprattutto che noi non ci accorgiamo che qua sotto ci sono un sacco di suoni che la nostra mente percepisce in modo subliminare. Mi sembrava interessante come a lei è venuta l'idea di fare questo tipo di ricerca. Qualche anno fa sono stato a Palermo in visita, ho visitato la cattedrale, bellissima tra l'altro. Da lontano chiaramente percepivo la struttura, l'architettura dell'edificio, però avvicinandomi mi rendevo conto che l'insieme era fatto da tutta una serie di piccole sculture che però davano forma al tutto. Però da così vicino non potevo percepire l'intera architettura, ma da lontano non potevo percepire questi dettagli. E questo è un po' ciò che accade nella musica per launeddas. La nostra capacità uditiva ci permette di cogliere solo, se vogliamo, l'architettura esterna, ma è quasi impossibile percepire appieno Il dettaglio. Questo dettaglio è di frazioni di secondo impressionanti, cioè vengono emesse delle singole frequenze, tonalità, ma cortissime. Con il nostro hardware, con il nostro software abbiamo fatto degli esperimenti, abbiamo visto che, soprattutto in questo pezzo che abbiamo sentito, ci sono dei suoni che piccoli, particolarmente piccoli, dell'ordine 3-2 millisecondi, credo quindi impercettibili. Alcuni suoni, tra l'altro due in particolare dell'intera scala della Leonidas, non si sentono proprio del tutto, si chiamano refinus nella tradizione sarda, perché sono coperti, se così possiamo dire, dalla particolare forza sonora di questa canna fissa senza fori che si chiama tumbu. Quanti anni hanno queste sonorità? Diciamo le Leonidas si presume abbiano perlomeno 5.000 anni. È stato ritrovato qualche anno fa ad Ittiri, in provincia di Sassari, un bronzetto nuragico datato appunto 2800-3000 avanti Cristo. Cioè è rimasto inalterato, e questo volevo chiedere. No, questo sicuramente no. Le Leonidas che conosciamo oggi sono intagliate su un sistema musicale a noi noto come sistema tonale, quindi quello utilizzato da Bach, da Mozart, tanto per dire, per cui non tanto la struttura dello strumento quanto le scale sono sicuramente di questa matrice, quindi non sono anteriori al periodo rinascimentale. Sentiamo chi adesso? Adesso sentiamo Aurelio Porcu, che è il maestro di Andrea Pisu. Teniamolo ancora sotto, certo, è veramente impressionante, sembrano perlomeno 5. Sì. Questo maestro non c'è più, no? Sì, è scomparso 2 anni fa. Gli spartiti di questa musica? Praticamente non ce ne sono, c'è stato soltanto negli anni 50 un danese, un certo Benson, che è venuto in Sardegna, ha tentato di fare un primo censimento di questa musica, chiaramente con strumenti molto rudimentali come un registratore a bobine, un microfono, e quindi anche le trascrizioni sono abbastanza aleatorie di questa musica, e in realtà è tutto quello che abbiamo. E quindi si tramanda completamente a memoria? Assolutamente a memoria, da maestro ad allievo, da maestro ad allievo e così via. Il che vuol dire che però sta scomparendo? Sì, sta scomparendo, se non è già scomparsa, perché diciamo il periodo d'oro di questo strumento era proprio a cavallo tra gli anni 50 e 60. I più grandi suonatori come Fisio Melis, Antonio Lara, Aurelio Porcu ormai sono scomparsi, quindi quello che loro facevano sopravvive, ma bisogna vedere come nei loro allievi. Veniamo adesso rapidamente a questa cosa che credo poi molti potranno capire di più vedendo il sito. Per riuscire a leggere a questo punto questa musica, non potendo scriverla su carta, come si fa a scrivere frazioni, frequenze di 0,2 millisecondi, voi avete inventato una strumentazione che riesce a interpretarla via computer. Sì, abbiamo prima pensato a un software che permettesse di fare una trascrizione più fedele possibile e quindi che si adattasse alle Leonidas, non che le Leonidas si dovessero adattare al strumento musicale, ma viceversa. E poi c'era il problema di come prendere il campione. Per tanti motivi è impossibile avvicinarci ai microfoni e poi tentare di fare una registrazione audio. E quindi ci siamo affidati ad altri aspetti, come per esempio il movimento delle dita sui fori. Quindi abbiamo cablato lo strumento, è il caso di dirlo, con una serie di sensori che potessero recepire questo movimento minimo delle dita sui fori. A questo punto abbiamo un segnale on-off che viene trasformato in digitale, quindi il computer può leggerlo e quindi cogliere anche queste piccole sfumature. E adesso, tanto per dirlo, poi se volete ve lo vedete sul sito, le immagini che vengono fuori sono come dei tappeti raffinatissimi con piccoli tracciati, dei pixel quasi di colore, e quelli sono gli spartiti, chiamiamoli. Sì, lo spartito è quello, perché di fatto il software è in grado di produrre spartiti in tanti modi, anche quelli tradizionali, ma uno che vedrete sicuramente sul sito è la trascrizione di un ballo dove ci sono oltre 7.000 tessere in poco più di 7 minuti di esecuzione, cose assolutamente inudibili, però visibili grazie alla trasformazione in colori, come vedrete. Però questi suonatori riescono a produrre queste cose che per noi sono subliminali, nella complessità le percepiamo. Direi di concludere facendo sentire che cosa accade adesso. Qui siamo in una dimensione un po' nuova, insomma le nuove tendenze, diciamo, delle Leonidas, quando invece che suonare uno suonano in 4-5. In 11 in questo caso. E qui indubbiamente è ancora più confermato che suonano veramente in tanti, diventa una sonorità veramente globale. Qui siamo in una chiesa, poi sono sì, questa è una chiesa. Per questo pezzo si chiama appunto Processione, un brano tipico della tradizione sacra. Qui però riuscire a fare rilevamenti è dura con il vostro sistema. No, con il sistema invece è molto semplice. Ah, ce la fate? Sì, perché noi cabliamo ogni singolo strumento, a prescindere da quello che accade a livello audio. Quindi il microfono non vi interessa no. più? No. Grazie Andrea Corona. Grazie e buona ricerca. Grazie. Non sarà facile nel tempo conservare le opere d'arte, i quadri in particolare. Adesso siamo soliti spedirli in giro per il mondo in occasione di mostre importanti, lasciano un museo a Berlino e se ne vanno per esempio per 4 mesi a Los Angeles. Per alcune di queste opere c'è ormai un divieto di trasporto perché le loro condizioni sono già critiche, sono opere per esempio molto vecchie, sono troppo delicate. Per molte altre opere no. Ma fino a quando si potrà andare avanti? Ciò detto però, i contenitori per il trasporto sono un elemento essenziale per mantenere in buono stato i quadri. Ci sono ovviamente i problemi di protezione contro urti e vibrazioni, ma per molti aspetti questo è un problema relativamente minore, si sa come risolverlo, ci sono contenitori molto efficienti, molto sicuri. Molto più delicata la situazione per quanto riguarda gli agenti chimici. Bisogna tenere presente che un quadro ad olio, per esempio, è una superficie sulla quale è spalmata una sostanza chimica. Il colore. E questa sostanza, come tutte le altre, reagisce all'ambiente circostante. Un ambiente inquinato, quindi, genera delle alterazioni nella chimica del quadro e bisogna proteggerlo. Però non c'è solo l'ambiente esterno. La plastica e gli adesivi che si utilizzano per il contenitore della spedizione possono emettere acido acetico. E poi, a complicare le cose, c'è il quadro stesso. La vernice, lentamente ma inesorabilmente, perde molecole, ovvero produce un gas. In un ambiente aperto questo gas è impossibile che produca danni perché naturalmente è una produzione di gas minima, molto bassa. Ma in un contenitore stretto il gas può raggiungere concentrazioni pericolose. Insomma, in questo caso è il quadro stesso che si danneggia. Il Fraunhofer Institute per la ricerca sui silicati, situato a Würzburg in Germania, sta lavorando a una serie di dispositivi per migliorare la qualità dei trasporti di opere d'arte. Uno molto diretto e immediato si basa sull'utilizzo di sensori che misurino la quantità e la qualità dei gas che circondano il quadro, sia quelli prodotti dal contenitore che quelli prodotti dall'inquinamento esterno e naturalmente, come vi ho detto, anche quelli prodotti direttamente dal quadro. Qui l'obiettivo è identificare con molta precisione cosa accade con i contenitori odierni. Non si tratta di mettere dei sensori per poi avere dei dispositivi che evitino questa produzione di gas che è sostanzialmente inevitabile. Oggi in effetti può sembrare banale, ma non lo sappiamo che cosa succede, non abbiamo delle misure precise e invece conoscendo questi dati si potranno progettare degli imballaggi migliori. Detto questo però, in prospettiva bisognerà rendersi l'idea che i quadri, c'è molte opere d'arte, non potranno essere continuamente presenti in tante mostre per quanto importanti in tutte le parti del mondo. Möbius finisce qui per questa sera, spero stiate già cuocendo magnifiche fritture al glucosio. Ci sentiamo fra una settimana. Buona serata a tutti e a tutte. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Möbius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.